Una voragine di almeno 20 metri si è aperta ieri mattina sopra la Domus Aurea, l'edificio voluto da Nerone che spicca all'interno del Colle Oppio. Il crollo causato dalle infiltrazioni d'acqua ha interessato la volta di una galleria traianea contigua al complesso, circondato da giardini pubblici. Nessuna vittima né feriti. Oggi partono i lavori di restauro per cui serviranno 800.000 euro, riferisce il sovrintendente ai beni culturali del Comune di Roma Umberto Broccoli, che aggiunge: le mura antiche di 2000 anni crollano. O prima o poi dobbiamo fare un lavoro di manutenzione ordinaria, questa è la cosa importante. Lo stato d'allerta rimane perché non si escludono altri cedimenti, che d'altronde già in passato hanno colpito la Casa Dorata di Nerone, ma il direttore della Domus Aurea, Antonello Vaudrè, osserva: non ricordo nella cronaca, perlomeno dal dopoguerra in poi, di un crollo di queste dimensioni. Il segnale è davvero preoccupante perché in questa situazione sono quasi tutte le volte delle altre gallerie e anche alcuni ambienti della Domus Aurea. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.